Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La lettura non può essere ridotta a consolazione o a semplice svago. È piuttosto una porta sul mondo che ci apre alla conoscenza di esperienze lontane, che ci mostra cose vicine che non avevamo notato o che non avevamo compreso, che ci fa comprendere le grandi potenzialità dell'umanità che ci circonda. Leggere ha a che fare con la libertà e con la speranza. Tutto questo è la lettura, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, secondo almeno il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi, dove l'ha detta questa cosa? Naturalmente l'inaugurazione del Salone Internazionale del Libro, che apre oggi a Torino e col quale poi ci collegheremo più tardi. Ma gli argomenti sono moltissimi stasera, come sempre qui Effetto Notte, quindi non perdete nemmeno un istante, perché torneremo a occuparci di scuola, visto che il dibattito molto acceso continua. Fra l'altro abbiamo parlato proprio con un sindacalista l'altro ieri del blocco degli iscritti, che potrebbe essere una nuova forma di protesta, e oggi è intervenuto il garante degli scioperi dicendo: se dovesse scattare non solo illegittimo, noi lo precetteremo gli insegnanti. Quindi questo è un argomento che tratteremo col sottosegretario Faraone, che torna qui a Effetto Notte, e anche con il segretario della UIL Scuola. Dopodiché affronterò un argomento magari inedito per Effetto Notte, ma che ha a che fare con il costume, la società e anche la giurisprudenza, perché la Cassazione ha sentenziato che la gelosia morbosa è reato. Quindi attenzione, gelose, soprattutto gelosi. Poi cercheremo anche di capire con quali criteri la si può definire morbosa, quali sono i limiti, e poi parleremo di Europa League, di un sacco di altre cose. Voi lo sapete che per i vostri interventi, che sia sulla scuola stasera o per esempio anche sulla gelosia, ci sono i due canali privilegiati tutti per voi, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che lì potete consultare, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, e poi ci sono gli SMS che potete mandare invece al 349-238-6666. Dunque direi naturalmente di partire innanzitutto con la sintesi della giornata. L'allarme di Mattarella: la corruzione è diffusa ed è una concezione rapinatoria della vita. Scuola, il garante avverte: il blocco degli scrutini è illegittimo e dannoso. Il disegno di legge approda intanto alla Camera, i sindacati invitano i parlamentari di opposizione in piazza. Afghanistan: attentato a Kabul, all'hotel degli stranieri, tra le 14 vittime c'è anche un italiano. Terrorismo: l'ISIS circonda Palmira in Siria, si teme per le antiche rovine, intanto mezzo milione di migranti pronti a partire dalla Libia. Lo studente morto in gita scolastica, le versioni dei compagni sono contrastanti e non convincono. Fecondazione assistita: arriva una nuova decisione della Consulta, illegittimo il divieto di accedere alla fecondazione per le coppie affette da patologie genetiche e via libera anche la diagnosi preimpianto. Sentenza della Cassazione: la gelosia morbosa è un reato. Sport: per l'Europa League in campo Napoli e Fiorentina, e sul calcio femminile gaffa di Belloli, e al Giro d'Italia vince Greipel ma cade Contador, la maglia rosa rischia il ritiro. Quindi dall'allarme lanciato dal Presidente della Repubblica Mattarella, che intervenendo al Salone Internazionale del Libro a Torino ha usato parole di fuoco contro i corruttori, che sono i peggiori peccatori, ha sottolineato citando le parole di Papa Francesco. La corruzione è un fenomeno che vediamo diffuso, che avvertiamo diffuso. È come se vi fosse una sorta di concezione rapinatoria della vita. La vita è così bella, convivere e stare insieme è così bello, può essere così bello in una società, che è veramente un delitto, come tecnicamente anche, ogni comportamento che turbi questa convivenza che potrebbe essere così bella. E ora la scuola: non si fermano, vi dicevo, le polemiche, le proteste, mentre il disegno di legge sulla riforma oggi è approdato in aula alla Camera. Mentre arriva l'appello dei sindacati ai parlamentari per una comune protesta, l'autorità garante degli scioperi avverte che l'eventuale blocco dei scrutini sarebbe illegittimo e dannoso, e che ci sarebbe quindi, scatterebbe insomma la precettazione. Ma come dicevo, ne parleremo in modo approfondito tra poco. Per la giustizia è stata raggiunta un'intesa tra Democratici e Area Popolare sulla prescrizione. L'accordo tra Partito Democratico e Area Popolare, vale a dire Nuovo Centrodestra e UDC, c'è. Ora bisognerà definire i dettagli, ma è il primo passo per ridurre i termini di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione fatto. In un vertice che si è tenuto in mattinata al Ministero della Giustizia tra il ministro Andrea Orlando e i capigruppo di maggioranza, si è stabilito l'avvio di un tavolo tecnico sulla prescrizione, con lo scopo di rivedere l'allungamento eccessivo dei termini per i reati contro la PA, che rischiava di avere impatti sulla ragionevole durata dei processi. L'obiettivo del tavolo è raccordare il DDL Pelle sulla prescrizione e il DDL anticorruzione che domani inizia l'iter per l'approvazione finale alla Camera. Il guardasigilli Orlando si è detto assolutamente soddisfatto per l'accordo raggiunto che, ha spiegato, ci consente di approvare le norme anticorruzione prima delle elezioni regionali come ci eravamo impegnati a fare. Area Popolare ha assicurato che i tempi di approvazione del DDL anticorruzione saranno rispettati e le norme saranno legge entro la prossima settimana. Non ci saranno intoppi, le parole di Renato Schifani al termine del vertice. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E slitta invece a dopo il voto regionale il decreto sulle pensioni. In attesa del provvedimento è arrivato il dato intanto sul debito pubblico. Andamento record per il debito delle amministrazioni pubbliche. Il massimo, già raggiunto a febbraio, con 2.169 miliardi, è superato infatti dal dato di marzo che arriva a 2.184,5. In crescita anche le entrate. Secondo la Banca d'Italia, a marzo queste sono state pari a 27,7 miliardi, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2014. I dati sul debito erano attesi, commenta il presidente di Confindustria Squinzi. Bisognerebbe cominciare a pensare, aggiunge Squinzi, a tagliare la spesa pubblica. Critica l'opposizione di altra doccia fredda per il governo. Renzi parla Brunetta di Forza Italia. Fonti del Ministero del Tesoro fanno però notare che il valore è in linea con le previsioni e frutto di alcuni aggiustamenti tecnici. Sempre da via 20 settembre confermano intanto la linea che starebbe seguendo Palazzo Chigi per risolvere la grana pensioni creata dalla sentenza della Consulta. La spesa possibile è stata circoscritta tra i 3 e i 3,5 miliardi da reperire tra tesoretto e incasso dal rientro dei capitali. Risorse che dovrebbero essere sufficienti per restituire uno dei due anni di blocco dell'indicizzazione, soluzione che secondo il governo sarebbe compatibile con la sentenza della Corte Costituzionale. Ne parleremo comunque nel Consiglio dei Ministri di lunedì, conferma il ministro Padoan. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo sui temi economici con le dichiarazioni di Draghi a Washington. Sebbene abbiamo già visto, dice Draghi, presidente della BCE, l'ha detto oggi a Washington al Fondo Monetario Internazionale insieme alla direttrice del fondo, Christine Lagarde, ha detto: abbiamo visto un effetto sostanziale delle nostre misure sui prezzi degli asset e sulla fiducia dell'economia. Ciò che veramente conta, ha detto Draghi, è che si abbiano altrettanti effetti su investimenti, consumi e inflazioni. Così ha detto e poi ha aggiunto: la BCE attuerà pienamente il suo programma di acquisti di titoli di Stato fino a quando vedremo un aggiustamento sostenuto dell'inflazione. E proprio oggi Atene, il ministro Varoufakis ad Atene ha proposto alla Banca Centrale Europea di posticipare i rimborsi in scadenza. Siamo alla politica italiana con le regionali, i riflettori oggi puntati sulla Puglia dove Forza Italia è spaccata ed era atteso Berlusconi a mezzogiorno a un comizio, poi però pare abbia avuto un malore, un rialzo della febbre, però ha raggiunto in serata Bari, ha detto: chi sarà il leader? È presto per dirlo, i leader creati a tavolino non hanno mai funzionato, il leader, il candidato premier emergerà naturalmente sulla base di consenso, della credibilità e dell'impegno, così ha detto. E ora invece le notizie dall'estero, perché la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di Sandro Abati, il cooperante italiano ucciso in Afghanistan durante un attacco dei talebani alla guest house di Kabul. Vili atti come questo non intaccano la nostra determinazione a continuare a lavorare con il popolo e il governo afghano per un futuro migliore. Questa è la posizione dell'Unione dopo l'attacco a Kabul in cui sono rimaste uccise 14 persone, tra cui Sandro Abati, cooperante italiano. Le sirene delle ambulanze hanno spezzato la notte della capitale afghana. Poco prima l'area attorno al Park Palace Guest House era stata circondata dagli agenti. Non è ancora chiaro il numero degli attentatori. Secondo il governo afghano erano in 3. Il comunicato di rivendicazione dei talebani parla invece di un solo kamikaze armato con esplosivo, un kalashnikov e una pistola. L'attacco è avvenuto mentre nella guest house, frequentata per lo più da stranieri e per questo colpita, era in corso un concerto di musica locale. 14 morti. Morti, 6 feriti, 54 gli ostaggi liberati. Sandro Abati, 48enne di Alzano Lombardo, al momento dell'attacco era insieme alla fidanzata di origini kazake, anche lei rimasta uccisa. Lavorava come consulente per un'agenzia che promuove investimenti in Afghanistan. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda l'ISIS, 10 soldati siriani sono stati decapitati appunto dall'ISIS che li aveva catturati nella sua avanzata verso Palmira in Siria, dove si teme possano distruggere le rovine dell'antica città come già avevano fatto in siti archeologici in Iraq. E siamo di nuovo in Italia perché c'è un'altra novità sulla fecondazione assistita. Per la decisione della Corte Costituzionale cade il divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche. A quanto si apprende, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'illegittimità di quella norma della legge 40 e del divieto di accedere alla diagnosi preimpianto. Insomma, in dieci anni la Corte Costituzionale ha smantellato vari aspetti della legge 40. Così Filomena Gallo, buonasera. È caduta Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Vi dicevo, in dieci anni la legge 40 ha subito vari colpi, perché il divieto di fecondazione eterologa è caduto, l'obbligo di impiantare al massimo 3 embrioni e tutti insieme, il divieto di accesso alle tecniche per le coppie fertili, e quindi sono questi i passaggi, man mano, gli elementi che sono venuti a cadere. Intanto, finché recuperiamo Filomena Gallo, spostiamoci sulla cronaca, perché proseguono le indagini sulla morte dello studente padovano in gita a Milano per l'Expo. Sono distrutto e siamo stati dentro 18 ore e non ce la faccio più, non vi dico niente. Non parlano con i cronisti, i compagni di classe di Domenico, non raccontano quanto riferito alla polizia che li sta sentendo per ricostruire le ultime ore prima di quel volo dalla finestra, per capire se si è trattato di uno scherzo, di una goliardata tra amici finita male. 18 ore di interrogatorio, 10 a Milano e 8 a Padova, per una decina di studenti del liceo Nievo, quelli che erano con Mauro Antonio sabato notte. Versioni contrastanti che non convincono gli investigatori, per ora si è esclude soltanto che sia stata una caduta accidentale. Troppo alto il davanzale della finestra, 1,10 m, per poter essere stato un incidente. Domani i funerali, e sempre in attesa degli esami tossicologici, c'è da chiarire perché sul braccio di Mauro Antonio ci fossero dei lividi e perché avesse accusato un forte malore di stomaco. Si è sfogata su Facebook la madre del ragazzo. Ho affidato il mio unico figlio alla scuola e mi verrà riconsegnato cadavere, ha scritto. La replica della preside. Io confermo quello che ho detto l'altro giorno, un malore mal gestito. Punto. Nazareno Orlandi, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi lo sport con il ciclismo. Il tedesco Greipel si leggerebbe, ha vinto allo sprint la sesta tappa, caduta nel finale che ha coinvolto anche una maglia rosa Contador, per il quale si temeva per domani la ripresa del giro, però pare, notizia di poco fa, che non ci siano per fortuna fratture, che domani la maglia rosa quindi dovrebbe ripartire per il giro. Per il calcio ci aggiorniamo dopo, e anche probabilmente con Filomena Gallo. C'è? Non c'è? Capuano, allora ogni tanto con questi telefoni che cadono, che si riaccendono. Giovanni Capuano sull'Europa League con Napoli e Fiorentina in campo. Giovanni. Eccomi, ciao. Eccoci. Roberta. Ciao. Beh, insomma, serata che deve dirci se va qualcuno a Varsavia, finale di Europa League del 27 maggio, dopo che la Juventus si è qualificata per quella di Berlino della Champions League. Intanto ti dico che tutte e due le partite sono sullo 0-0, Fiorentina-Siviglia e Dnipro-Napoli. La Fiorentina è chiamata all'impresa perché deve ribaltare il 3-0 dell'andata ed è impresa difficilissima. Ti dico che non gioca Gomez, al suo posto c'è Ilicic, ha iniziato molto meglio però il Siviglia, che ha sfiorato un paio di volte il gol. Il Napoli parte dall'1-1 del San Paolo, deve assolutamente segnare, vincere o pareggiare con almeno due gol realizzati. Piove a Kiev, perché si gioca a Kiev contro il Dnipro, e il Napoli ha avuto una grandissima occasione dopo 5 minuti con Higuain, che però ha tirato addosso al portiere. Era solo, era già la palla buona per portarsi vantaggio e Higuain l'ha mancata. Napoli che non può permettersi di sbagliare queste occasioni. 0-0 comunque sui due campi. Napoli può farcela, la Fiorentina serve davvero un miracolo. Senti, voglio anche nel minuto che resta, Giovanni Capuano, anche chiederti un'altra cosa. Il successore di Tavecchio alla Lega Dilettanti, il presidente Felice Belloli, ha detto una cosa ben poco felice oggi a proposito del calcio femminile in Italia, che già è trattato male, non è finanziato, le giocatrici devono lavorare di giorno e poi andare a giocare di sera, allenarsi, non c'è nessuna promozione. Ha detto: basta dare soldi a queste quattro lesbiche. Allora, premesso che non è un'offesa, anche se lui l'ha usata in modo omofobo, diciamo, questo termine, ma quel ruolo lì ogni tanto dà la testa, secondo te? Ma sì, evidentemente c'è un problema, perché sul tema dell'omofobia era accaduto, o comunque degli stereotipi sulle donne, era accaduto lo stesso presidente Tavecchio, noto per la frase suo tipo Obama, che in realtà pochi mesi prima aveva parlato delle donne come delle possibili handicappate, che però poi si erano dimostrate uguali a tutti gli altri. Insomma, anche quella è una frase poco elegante, che se in realtà Tavecchio aveva modi di esprimersi abbastanza rudi. Questo dimostra l'interesse e la voglia di promuovere il calcio femminile che hanno. Guarda, il paradosso è che questa frase è diventata pubblica nel giorno in cui Michel Platini, presidente dell'UEFA, aveva da poco invece confermato la necessità per tutti i club di investire sul calcio femminile, tra l'altro riprendendo in certo senso un'idea dello stesso Tavecchio, che poi al di là delle parole in concreto nel suo programma elettorale ha quello di costringere tutti i club, quindi Inter, Milan, Juventus, anche grandi club, ad avere una sezione femminile. Oggi questo non accade, sono pochissime le squadre che ce l'hanno, c'è ad esempio l'Inter che ha una squadra in Serie B, quindi c'è questo cortocircuito di cui la conclusione onestamente che bisogna dire è che un dirigente sportivo che cade in una, chiamiamola gaffe, ma probabilmente non è una gaffe, come quella di Belloli, dovrebbe prenderne le conseguenze e prendere anche la porta, probabilmente. Secondo me non accadrà. Come sempre, grazie Giovanni Capuano. Così avviene in Italia, questo è il costume italiano. Allora, mentre voi scrivete i vostri messaggi, sia al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito della scuola e se volete anche di questa sentenza sulla gelosia, ci sentiamo in aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme. Mariano da Vicenza, colpito dalle parole di Mattarella sulla lettura, dice: leggere è libertà e tutti gli italiani, e gli italiani, più di metà dei quali non legge nemmeno un libro all'anno, è schiava dell'ignoranza. Ecco perché siamo ridotti così male, dice Mariano. Poi i vostri messaggi più tardi, vi ricordo, molti accendono la radio colpevolmente più tardi delle 21 quando inizia Effetto Notte, vi ricordo comunque le notizie più importanti della giornata. È illegittimo il blocco degli scrutini, così dice il garante, pronto a precettare i sindacati della scuola, i quali dicono ai parlamentari: venite in piazza con noi. Allarme di Mattarella, la corruzione diffusa fa indignare, e intanto c'è accordo nella maggioranza per il taglio alla prescrizione nei reati nella pubblica amministrazione. Lunedì decreto sulle pensioni in Consiglio dei Ministri, si va verso i mini rimborsi. E poi l'ISIS che pubblica un audio di Baghdadi, del loro leader: l'Islam è la religione di guerra, battaglia intanto a Palmira in Siria, si teme per le antiche rovine della città. Attacco dei talebani a Kabul, ucciso un cooperante italiano, fra le vittime anche la compagna, dovevano sposarsi a luglio. Il ragazzo morto in gita a Milano, sotto torchio i compagni di scuola, gli investigatori ipotizzano una goliardata o un festino finito male. L'omicidio di Elena Ceste, giudizio immediato per il marito, udienza il 1 luglio. E poi Cannes che applaude Matteo Garrone, dice: il mio fantasy col cuore italiano, ma le ovazioni sono soprattutto per Mad Max e la bella Charlize Theron. Abbiamo allora recuperato l'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera, avvocata. Buonasera a voi. Quindi dicevamo dei vari colpi che ha subito la legge 40 in questi 10 anni da parte della Corte Costituzionale. L'ultimo è questo sull'accesso, il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle coppie fertili portatrici di patologie genetiche. Quindi ha detto questo divieto, ha detto la consulta è illegittimo. Cade anche questo. Sì, l'abbiamo appreso dalle agenzie questa importante notizia, domani aspettiamo le motivazioni e la sentenza. Per 3 volte la Corte Costituzionale ha cancellato i divieti più importanti della legge 40, quest'ultima volta, appunto come lei anticipava, ha cancellato quel divieto che non consente alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche di accedere alla fecondazione assistita per poter eseguire indagini preimpianto. Attualmente soltanto le coppie infertili possono accedere alla diagnosi preimpianto dell'embrione. Quindi una coppia fertile che è malata o è portatrice di una patologia genetica che quindi si trasmette tramite i geni non può accedere a delle indagini che potrebbero evitare un aborto. Che è un paradosso, effettivamente. È un paradosso. Già la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2012 ha condannato l'Italia per questo divieto. Il governo avrebbe potuto cancellare immediatamente il divieto, ma cosa ha fatto? Ha atteso che intervenissero i giudici. Oggi è una vittoria di tutte le associazioni di pazienti, delle coppie, delle persone malate. Noi associazione Luca Coscioni, con Luca Coscioni fin dall'inizio, dal 2004, abbiamo cercato di cancellare questa cattiva legge e dopo 11 anni nei tribunali è stata fatta abbastanza a pezzettini, insomma, sì, a eliminare la gran parte dei divieti. Rimane solo un divieto, prossimamente ci sarà un'udienza sul divieto di utilizzo per la ricerca degli embrioni non idonei per una gravidanza. Chissà, il governo potrebbe intervenire prima, ci auguriamo che lo faccia. Lo vedremo. Intanto oggi tante coppie sono contente perché potranno realizzare il loro desiderio di avere un bambino. Grazie avvocata Filomena Gallo. Grazie a voi. Buona serata. Passiamo invece alla scuola adesso, che continua a essere da diverso tempo, in particolare dopo il grande sciopero dello scorso 5 maggio, al centro del dibattito politico-sociale. Come del resto lo stesso Matteo Renzi ieri ha confermato in un video, avevo fatto sentire un passaggio ieri, che ha confezionato armato di gessetto e di lavagna appositamente per spiegare che cosa è contenuto in questa riforma della scuola del suo governo, questo disegno di legge che si chiama La Buona Scuola. Sentiamolo. E non so come fare a dirlo, perché qualcuno potrebbe pensare che sono felice delle discussioni, ma in realtà io sono proprio contento del fatto che finalmente la scuola sia al centro della discussione. Certo, non apprezzo alcuni toni, alcune polemiche, i boicottaggi di chi non vuole far partecipare i ragazzi agli invalsi, probabilmente abbiamo sbagliato anche noi del governo alcuni messaggi di comunicazione, ma l'idea che finalmente in Italia la scuola sia al centro per me è la cosa più importante di tutte. Quindi al centro, e spiega Renzi che alcuni elementi particolarmente contestati o temuti non ci sono in realtà in questo disegno di legge. Cos'è che non c'è nella buona scuola? Non si parla, no, nel modo più totale, di ferie per gli studenti, chiamarle ferie è un po' forte, di giorni di vacanza. Non si parla di vacanza, è uno degli argomenti che più sui miei social network i ragazzi mi hanno detto: tu stai distruggendo i nostri giorni di vacanza. Nel buona scuola non si parla di questo. Non ci sono presidi Rambo. I presidi Rambo esistono soltanto al cinema, se ci sono al cinema. Insomma, non ci sono i presidi Rambo, però l'incontro con i sindacati, tra sindacati e governo, di 2 giorni fa, se non sbaglio, è fallito, perché questa mediazione che si cercava anche sui presidi cosiddetti Rambo evidentemente non c'è stata. Ma ne parliamo questa sera con l'onorevole Davide Farone, sottosegretario all'istruzione, che saluto. Buonasera. Paraone. Buonasera a voi. E Massimo Di Menna, segretario della UIL Scuola. Allora, oggi è intervenuto, vi dicevo all'inizio, l'autorità garante degli scioperi, dicendo: se è vero questa minaccia del blocco degli scrutini come nuova protesta da parte dei sindacati e degli insegnanti, eccetera, saranno precettati. Massimo Di Menna. Buonasera. Buonasera. Voi avete anzi invitato oggi i parlamentari a venire con voi in piazza, quando domani mi pare ci sia questa... È una delle tante iniziative che si svolgono nelle città italiane, quella dei sindacati di Roma prevedono anche di una discussione in piazza del Pantheon con i parlamentari che vogliono partecipare. Onorevole Faraone, questa mediazione arriva o no? Perché Renzi continua a dire: ma noi siamo aperti, lo sentivamo anche col gessetto che diceva: questa cosa non c'è, quest'altra non c'è, bisogna avere fiducia, la scuola al centro. Ma intanto molte questioni che erano state poste all'inizio della discussione sulla scuola, dal primo giorno che è stata presentata la proposta, sono state cambiate proprio in virtù di una discussione di proposte che sono emerse non soltanto da ambienti sindacali, ma anche da insegnanti, genitori, studenti. C'è stata una consultazione ampia. Dopodiché, accanto a questo, dico che fino a quando non ci sarà l'approvazione definitiva, e quindi tutto il percorso parlamentare sarà compiuto, la Camera che esaminerà entro mercoledì e poi il Senato, c'è un dialogo che è aperto a modifiche, purché non si modifichi l'impianto e sia garantita intanto l'autonomia degli istituti scolastici, al tempo stesso l'investimento economico sulla scuola. Massimo Di Menna, se ci sarà quindi il blocco degli scrutini, avete già sentito, è illegittimo, non si può fare? Ma una iniziativa abbastanza intempestiva del garante, nel senso che durante il periodo degli scrutini è possibile organizzare e partecipare ad iniziative di sciopero nei limiti che la legge prevede, che sono 2. Non si possono fare gli scrutini oltre l'ultimo giorno precedente gli esami di maturità, quindi comunque va garantito che questi scrutini debbano essere fatti prima degli esami di maturità, e non può essere spostato lo scrutinio di una scuola per oltre 5 giorni dalla data in cui sono stati indetti. Noi abbiamo con assoluta tranquillità affrontato questo problema, nel senso che abbiamo fatto uno sciopero con 600.000 aderenti. Le ragioni degli insegnanti sono chiare e conosciute al governo, al Partito Democratico, ai parlamentari, perché gliele abbiamo spiegate bene, quindi penso che le abbiano capite. Sanno anche quali sono gli elementi concreti sul precariato, sui superpoteri del dirigente e sulle tutele contrattuali che debbono essere introdotte. Se dopo questo sciopero il governo continua a non capire, noi gli abbiamo detto dal palco a Roma dicono sono di coccio, noi continueremo con la nostra azione di mobilitazione e quindi se a giugno sarà necessario protestare ancora lo faremo nel totale rispetto delle leggi, nel totale rispetto delle famiglie, anzi con il coinvolgimento secondo quanto la legge prevede, quindi è stata questa discussione sul blocco è del tutto inesistente, è del tutto fuorviante, nessuno di noi ha mai detto che vuole andare fuori legge o contro la legge, nel modo più assoluto, quindi assolutamente tranquillizzante. Soltanto che c'è una preoccupazione che al di là degli scrutini si sta concludendo l'anno scolastico, che è un periodo delicatissimo in cui i professori sono impegnati nelle valutazioni dei ragazzi, nelle ultime interrogazioni, nei compiti in classi, in un clima dove ogni giorno noi siamo coinvolti con email, proteste, perché gli insegnanti rispetto alle proposte che il governo ha fatto si sentono irritati ed offesi. Quindi il governo dovrebbe fare velocemente un intervento in cui sulle parti difficili faccia delle modifiche forti in Parlamento. Onorevole Faraone, quindi come si fa a rasserenare questo clima sul super poteri del preside che evidentemente ci sono, non si chiamerà Rambo, si chiamerà forse in un altro modo, i precari, come si può venirsi incontro, onorevole Faraone, su cosa siete? Intanto non serve un garante per dire che gli scrutini non si toccano, ci vorrebbe soltanto il buon senso. Mettere in discussione l'anno scolastico degli studenti perché non si condividono parti di riforma, una riforma è fare del male alle persone per cui la scuola è messa in piedi, i ragazzi e per cui le famiglie soffrono, gioiscono, cioè il fatto che uno studente in un anno scolastico è promosso e magari anche a buoni risultati, per cui non servono i garanti, mi aspetto senso di responsabilità da parte degli sindacati, da parte degli insegnanti. Al tempo stesso non ci può essere la pretesa che una riforma, una proposta possa essere scritta da una parte e senza ascoltare le esigenze complessive della società, perché c'è sicuramente l'esigenza posta dai sindacati, ma noi sentiamo le esigenze anche poste dalle famiglie, dagli studenti, da chi comunque è protagonista della scuola, e un governo ha il dovere di ascoltare tutti e di tirar fuori la riforma che è più utile alla società, non la riforma che è più utile ai sindacati o ai politici, ma ciò che è utile alla società. Per cui noi siamo tranquilli nel voler portare avanti questo provvedimento, ripetiamo nel massimo del coinvolgimento e dell'ascolto. Per cui se dalle forze sindacali, agli insegnanti, emergono proposte utili, funzionali, così come è accaduto fino ad ora, continueremo ad ascoltarle e a coglierle nei provvedimenti. Se il tema è che non si deve toccare nulla, non si deve cambiare nulla nella scuola, così come nel mondo del lavoro, così come nelle riforme elettorali che facciamo, se il tema è questo non ci sarà un governo disponibile ad accettare l'immobilismo, perché purtroppo l'immobilismo l'abbiamo avuto per troppi anni, ora c'è bisogno di cambiare. Bene, ho capito che torneremo senz'altro su questo argomento, ci sarà ancora da dibattere e vediamo verso dove confluisce. Grazie intanto all'onorevole Davide Faraone, grazie, buona serata, grazie, buona continuazione. E grazie a Massimo Di Menna della UIL. Grazie Di Menna. Grazie a voi e a presto. A presto. Buon lavoro. Mentre stiamo per prenderci allora adesso qualche minuto di ricreazione, allora Andrea Corazza dice: Renzi è un troglodita, usa la lavagna di Ardesia e non una Lim, quelle insomma elettroniche. Vabbè, lui voleva essere tradizionale, voleva la lavagna, diciamo che nell'immaginario collettivo evoca molte cose ed è proprio l'immagine della scuola in senso classico, forse perché lui l'ha ricordata anche in quel modo, la sua maestra, eccetera. Vabbè, queste sono sfumature. Dopo parleremo di questa sentenza sulla gelosia, ha detto la Cassazione, che se è morbosa è un reato. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato nuovamente di scuola con il sottosegretario all'istruzione Faraone e con il segretario Will Scuola. E insomma, diciamo che le parti difficilmente si riescono a ricomporre al momento. Guardavo però tra le agenzie, e naturalmente vi aggiorno costantemente su quello che avviene, che l'area di minoranza del PD, area riformista, una dei gruppi di minoranza, dice: siamo critici sull'impostazione di fondo della riforma della scuola, daremo battaglia nel merito con i nostri emendamenti, ma la differenza positiva è che questa volta non c'è blindatura del governo, così dice l'area riformista, anche se i sindacati la pensano un po' diversamente. Comunque abbiamo detto che vedremo vedremo come si evolve. Adesso tra poco parleremo di questa sentenza della Cassazione, ma intanto a proposito dei vostri messaggi potete continuare a mandare gli sms al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. C'è Paolo da Catania che dice: chiedete a Faraone di introdurre formalmente lo Ius Primae Noctis a favore del preside nella buona scuola, proprio per questo preside considerato ormai super potente che siede sulla poltrona di pelle umana. È una cosa, insomma, varie ironie è stato fatto su questo. Vedremo come finirà anche questo aspetto. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie più importanti della giornata. Allarmi di Mattarella, la corruzione è diffusa, dice, ed è una concezione rapinatoria della vita. Scuola, il garante avverte, il blocco degli scrutini è illegittimo e dannoso, il disegno di legge intanto approda alla Camera, i sindacati invitano i parlamentari di opposizione in piazza. Afghanistan, attentato a Kabul, all'hotel degli stranieri, tra le 14 vittime c'è anche un cooperante italiano e la sua compagna. Terrorismo, l'ISIS circonda Palmira in Siria, si teme per le antiche rovine. Lo studente morto in gita scolastica, le versioni dei compagni sono contrastanti e non convincono, dicono gli investigatori. Fecondazione assistita, arriva una nuova decisione della Consulta, illegittimo il divieto di accedere alla fecondazione per le coppie affette da patologie genetiche e via libera anche la diagnosi preimpianto. Ne abbiamo parlato qui a Effetto Notte. La sentenza della Cassazione di cui ci occuperemo tra poco. Poi per lo sport, per l'Europa League, in campo Napoli e Fiorentina, sul calcio femminile la gravissima gaffa di Belloli e poi al Giro d'Italia vince Greipel ma cade Contador, che però non ha fratture, quindi domani dovrebbe ripartire. Adelaide, tu la pizza, vero? Sì. Allora scrivi. Alla zoccola qui presente, una pizza napoletana. Al cornuto che sarei io, niente. Perché io non sono venuto qui per mangiare, ma per far sapere a tutti che questa infame mi tradisce con quel boia zozzo, l'unico traditore che fa le pizze. Sì, tale Serafininello, quello lì, quello con i baffetti. Proprietario, in dove sta il proprietario? Vieni qua. Quello lì, insidia le clienti, è la vergogna del locale. E che è successo? Hai saputo infangare tutto ciò che c'è di più bello. Amore, fiducia e amicizia. Vieni! E vabbè, questo è il dramma della gelosia, un film con Mastroianni, Monica Vitti, Giancarlo Giannini, uno di quei bei film di quegli anni. Qui un po' si scherza, in realtà però c'è qualcosa di molto serio, perché c'è addirittura una sentenza della Cassazione che dice: la gelosia morbosa connotata da insistente contestazione di tradimenti inesistenti, ispezione costante del telefono del partner, reiterate richieste di test del DNA sui figli, configura il reato di maltrattamenti. Si tratta di una vessazione psicologica punita dalla legge. Questo lo sottolinea, vi dicevo, la Cassazione, rinviando quindi alla Corte d'Appello di Palermo il processo a un marito ultrageloso, secondo cui tra l'altro la moglie avrebbe dovuto lasciare il posto di assistente di volo, quindi di hostess, perché è un lavoro non adatto a donne per bene, diceva lui. Sapete che la gelosia poi portata agli estremi è quella che poi degenera nei vari femminicidi, che quella è più una questione di possesso, perché nei femminicidi, diciamo, 9 volte su 10 che avvengono ogni 2 giorni in Italia, il motivo è che queste donne se ne vanno e gli uomini dicono: no, tu sei roba mia, piuttosto che stare con qualcun altro ti ammazzo. Ne parliamo con Claudio Mencacci. Buonasera professore. Buonasera. Psichiatra e già presidente della Società Italiana di Psichiatria. Allora, al di là, diciamo, delle conseguenze estreme, ma la gelosia morbosa come si può identificare? Quando è che è morbosa? Insomma, un po' di indicazioni la date, per carità, la Cassazione. Beh, la gelosia morbosa è chiamata anche una gelosia delirante, è quando la persona è assolutamente convinta dell'infedeltà della moglie e quindi sceglie anche le prove cosiddette più evidenti, che possono essere un abito un po' in disordine, una piccola macchia sul vestito, e tutto questo viene ritenuto la prova principale del tradimento. La gelosia è come la febbre, perché quando la febbre è troppo alta e non va via diventa assolutamente patologica, ed è una convinzione che per tanti anni, finalmente questa sentenza fa un po' di chiarezza, è che la gelosia non salvaguardia ma distrugge i legami e l'amore. Questo dobbiamo averlo molto ben chiaro, ecco. E esistono evidentemente poi tanti tipi anche di gelosia patologica, quella descritta, quella di tipo delirante, della convinzione permanente, è la forma più grave, ma ne esistono altre laddove però la persona è convincibile, è pieno di dubbi sulla fedeltà della persona, ma però riconosce ad esempio l'infondatezza di questi suoi pensieri. Ecco, di fronte a tutto questo dobbiamo sapere che quando ci troviamo di fronte a una persona così gelosa, possessiva, che porta un tipo di amore così captativo, insomma, dobbiamo stare veramente un po' attenti. Professore, infatti, lei diceva giustamente, poi è inutile, no, essere tanto gelosi della persona che abbiamo accanto, perché se la persona vuole fare i fatti suoi, vuole andarsene con qualcun altro, intanto è libera di farlo, anche se questo porta dolore, per carità. Certo, non la terremo con la gelosia estrema. Professore, però c'è differenza, no, tra anche gelosia maschile e gelosia femminile, al di là delle conseguenze diverse fra una gelosia e l'altra. Ci sono la gelosia di lei, tendenzialmente femminile, più in silenzio. La gelosia degli uomini è una gelosia un po' più attiva, purtroppo, come ha citato, a volte malvagia e drammatica, ed è un po' come le stesse motivi che soggiacciono a ciò che ferisce di più un uomo e ciò che ferisce di più una donna. Gli uomini sono più feriti dai tradimenti, le donne più ferite dalle bugie. E forse nelle donne più insicurezza e negli uomini più sentimento possessivo, è possibile? Sì, questo è possibile, ma è la modalità con la quale un uomo stabilisce una relazione, perché se la gelosia posta è come la febbre, preferiamo la temperatura normale, vogliamo stare sotto i 37, un 37 lo tolleriamo, ma quando sale il 41 dobbiamo passare all'emergenza. Si può guarire? Per chiudere, professor Mencacci, si può guarire dalla gelosia? Sicuramente nella gelosia di tipo ossessiva, quella del fatto dei dubbi piuttosto che da un'ideazione prevalente, sicuramente nella forma più estrema è molto più complesso, anche se lì si può fare qualcosa. L'importante è riconoscerlo e non confondere gelosia con amore. Certamente. Non hanno nulla a che fare. Senz'altro, ecco. Questa direi che è la frase lapidaria sulla quale ci dobbiamo soffermare. Professor Claudio Mencacci, la ringrazio e la saluto allora. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a lei. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Mi piace questo messaggio di Giacomo al 349-238-6666, poi dopo leggerò se c'è tempo anche quelli su Effetto Notte sulla pagina Facebook. Dice: ricordate al presidente della Lega Calcio, Dilettanti, quello che ha fatto questa gaffe terribile sul calcio femminile, che l'ultimo podio azzurro è stato quello delle ragazze under 17, terze ai mondiali. Grazie Giacomo di questo ricordo, di questa notizia. E adesso le altre notizie invece, che sono quelle principali. Vi dicevo naturalmente la questione della scuola, illegittimo il blocco degli scrutini, così dice il garante degli scioperi, pronto a precettare i sindacati della scuola che chiedono ai parlamentari di scendere in piazza con loro. Allarme di Mattarella sulla corruzione, diffusa, dice, fa indignare. E poi lunedì decreto sulle pensioni in Consiglio dei Ministri, si va verso mini rimborsi. Attacco dei talebani a Kabul, è stato ucciso un cooperante italiano e fra le vittime c'è anche la compagna, dovevano sposarsi a luglio. Per il ragazzo morto in gita a Milano, sotto torchio i compagni di scuola, gli investigatori ipotizzano una goliardata o un festino finito male. E poi per il calcio, l'Europa League, ci aggiorneremo tra poco. Europa 24. Keep Clean and Run, pulisci e corri, è una corsa di montagna in 8 tappe da Aosta a Ventimiglia, con arrivo previsto il 16 maggio. Qual è l'obiettivo? Sensibilizzare alla gestione di un ciclo dei rifiuti virtuoso. È l'evento clou italiano nell'ambito della campagna europea Let's Clean Europe, che ha promosso una maxi pulizia di strade, piazze, parchi e spiagge in tutta Europa. A percorrere i 400 chilometri è Roberto Cavallo, amministratore delegato della cooperativa Erika e presidente dell'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale. Allora sentiamo il microfono di Alessandra Schepisi. Clean and Run, nonché si accorre, intanto solo qui una piccola battuta rispetto ai titoli, perché in inglese è tieni pulito e corri, invece noi abbiamo dovuto in italiano scrivere pulisci e corri, perché purtroppo abbiamo troppa immondizia per le strade. Nasce nel novero di tutte le iniziative che si svolgono attorno al 10, che è passato, di maggio, che è la giornata europea della pulizia dell'Europa. È stata voluta dall'ex commissario europeo Janez Potocnik e poi ribadita dal nuovo commissario Veglia. Ma poi in realtà a cavallo di questa data, se ne inizia, in tutta Europa ci sono molte iniziative. In Italia abbiamo avuto 356 iniziative, l'iniziativa centrale con il Ministero dell'Ambiente è stata questa, ovvero Pulisce e Corri. 8 giorni di corsa, 400 chilometri da Aosta a Ventimiglia con 20.000 metri di dislivello, perché una delle priorità della Commissione europea è i rifiuti in mare, il marine littering. Ma dobbiamo sapere che il 70%, oltre il 70% dei rifiuti che vengono buttati, che arrivano al mare, sono rifiuti buttati nell'entroterra, nelle nostre città, nelle nostre campagne, nelle nostre montagne. E poi un temporale, un acquazzone, vengono veicolati nel ruscello e poi dal ruscello al torrente, torrente al fiume, fiume al mare, e poi abbiamo il sesto continente, questa enorme massa di rifiuti, soprattutto di plastica, nei nostri oceani, ma li abbiamo buttati noi. E quindi voi che cosa fate? Correte e cercate di sensibilizzare le persone? Allora, l'iniziativa è relativamente semplice, nel senso che c'è una parte sportiva che è fatta veramente di corsa, 50-55 km al giorno. Durante il percorso cosa troviamo? Non tutto, però parecchie cose le mettiamo nello zaino, abbiamo un'auto ammiraglia che ci segue e ai checkpoint svuotiamo lo zaino e continuiamo. E purtroppo, devo dire, troviamo parecchia roba. Cosa non possiamo caricare? Fotografiamo. E quando arriviamo alla tappa finale, restituiamo, facciamo vedere cosa abbiamo raccolto o fotografato e diamo in testimone all'amministrazione che ci riceve le immagini, oltre ai rifiuti raccolti, dicendo guarda che là c'è una discarica abusiva, io sono sceso. Quindi le cose più clamorose che avete trovato quali sono? Televisioni, piuttosto che pezzi di computer. Ieri mi sono portato nello zaino un frontalino di un'autovettura per 5 chilometri. Era un po' pesante, ma adesso è diventato, l'abbiamo messo su Facebook, è diventato un oggetto vintage, la gente ci chiede di tenerlo perché lo vuole. Succedono anche queste cose simpatiche. Ma sta crescendo, secondo lei, la coscienza ambientale tra gli italiani su questo tema? Ma guardi, io sono un inguaribile ottimista, per cui io credo moltissimo che la strada che stiamo facendo è virtuosa. Però voglio sottolineare, e lo dico sempre, che è una questione di corresponsabilità. Dobbiamo evitare di pensare che sia uno il responsabile. Se il sentiero dove oggi ho camminato e corso è sporco, non è responsabilità solo di chi ha buttato via quel pezzo di plastica o quel pezzo di alluminio. C'è una corresponsabilità di tutti, di chi ha prodotto, di chi ha distribuito e venduto, di chi ha consumato e buttato e dell'autorità pubblica che deve vigilare. Allora io credo che siamo... abbiamo le regole, abbiamo un sistema di regole, dobbiamo far sì che le regole vengano rispettate da tutti, creando una sana corresponsabilità. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. E ora colleghiamoci subitissimo col Salone Internazionale del Libro, c'è la nostra Alessandra Tedesco, oggi l'inaugurazione con Mattarella, ma Alessandra, soprattutto oggi di particolare è stato presentato l'ultimo libro postumo di Giorgio Faletti. Sì, è l'ultimo libro postumo, come dicevi tu giustamente, perché Giorgio Faletti è scomparso circa un anno fa. Il libro si intitola La Piuma, l'ha pubblicato Baldini e Castoldi. E oggi ne ho parlato con la moglie, Roberta Bellesini, perché molti hanno definito un po' il testamento di Faletti, anche se non è corretto definirlo così, perché era un lavoro a cui lui stava, era un testo a cui lui stava lavorando già da anni, quindi non è certamente un testo, un libro completamente diverso dai precedenti. Non è un giallo, non è un thriller, è una piccola favola morale dove ci sono diversi personaggi allegorici. Sentiamo appunto cosa ci ha dichiarato la moglie Roberta Bellesini. Era un progetto al quale Giorgio lavorava tra virgolette nei momenti di pausa tra un progetto e l'altro. Era un progetto molto articolato perché nella sua testa doveva essere soprattutto un musical. E quindi lui aveva cominciato a lavorare alla parte scritta, quindi aveva steso, c'era stata la stesura della storia, quindi la creazione di questi personaggi, ma quella appunto voleva essere la base poi per lavorare a un progetto più ampio, quindi con dei testi musicali, delle musiche e delle canzoni vere e proprie. Quindi voleva farne un musical, Alessandra Tedesco? Voleva farne un musical e non è detto che non si faccia. Tra l'altro, parlando sempre con Roberta Bellesini delle possibilità che i libri di Faletti possano arrivare a teatro oppure al piccolo o al grande schermo, lei ci ha raccontato che Faletti desiderava moltissimo che Io uccido diventasse un film e il gioco fra lui e la moglie era inventare ogni anno il cast dei possibili attori, che poi cambiavano ogni anno perché insomma gli attori scelti ipoteticamente invecchiavano e quindi usavano fare questo gioco fra loro e quindi il desiderio adesso della moglie è quello di realizzare il film su Io uccido. Grazie Alessandra Tedesco dal Salone Internazionale di Torino del libro. Ciao Alessandra, buona lettura. Ciao, buonanotte. Ringrazio Antonio da Catanzaro il suo messaggio, ma non ho risposte da dargli, lo ringrazio per quello che scrive. Noi ci risentiamo giusto per gli aggiornamenti alle 22.